angustia più fiera io non mi vidi mai. Tutto in ruina se parlar genere, e forza raggiungerla, piegarla, e chi trattiene la principessa intanto, e solo amico potria. Dove andrò? Se cerchi, almeno è consiglio e conforto, Megacle mi darà. Megacle è morto! Che dici, Aminta? Io dico purtroppo il vero. Come? Perché? Quale? Così bei giorni tronco! Trovisi, io voglio che in più esempio di vendetta altro inneresti. Principe, non cercar, tu l'uccidesti. Io? Deliri? Volessi il cielo che io delirassi. Odimi, in traccia mentre ordite in venia fra quelle piante. Un gemito improvviso, sento, mi fermo, al suon mi volgo e miro. Che sul nudo acciaro bruno già s'abbandona. Accorro, al petto fo d'un avan sostegno, con l'altra il ferro svio. Ma quando il volto a Megacle ravvisai, pensa com'ei restò, com'io restai. Dopo breve stupore, ma qual follia bramar di fa la morte. Io volea dirgli e mi prevenne a vita. Vissuto abbastanza, sospirando mi disse dal profondo del cuore, senza ristea non so viver né voglio, ma son due lustri e non vivo che in lei. Ligida, oddio, m'uccide, non lo so, ma non m'offende. Suo dono è questa vita, riprende. Amico! E poi? Fugge da me, ci ho detto, come parte costral. Vedi quel sasso, signor, colà, che il sottoposto al feo signoreggia e adombra. Egli va scende in men che non balena, in mezzo al fiume si scaglia,